Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Qual è il lavoro del futuro? Allora, si calcola che da qui ai prossimi 20 anni il lavoro sarà il 40% dei lavori sarà sostituito completamente dalla tecnologia, dalle macchine. Che cosa succede? Quindi che rischi di diventare obsoleto, inutile nel lavoro che fai. E ancora si sta lì a cercare il postarello fisso o piuttosto che il lavoro da impiegato da qualche parte. Un paio d'amici mi hanno scritto e mi hanno detto: ma quali sono queste professioni, Nico? Parlaci di quali sono le opportunità che offre il web veramente. Io ti dirò quelle che secondo me, le prime 5 che mi sono venute in mente, quelle che secondo me sono le più appetibili, quelle che dalla mia esperienza ti porterebbero direttamente nel mondo del lavoro, no? Prima che ti scrivi a filosofia. Questi sono ragionamenti fra ragazzi su il futuro dell'automazione, il lavoro, tratto da un canale YouTube di Nicolò Corrente, che è un ragazzo che dà attraverso questo sistema immediato, per quanto possibile efficace o perlomeno diretto, delle dritte sul mondo del lavoro. Oggi parliamo di mondo del lavoro, ne parliamo con un approccio particolare, con una metodologia particolare. Abbiamo già iniziato la settimana passata, abbiamo deciso di dare un senso concreto a quello che è stato il lavoro di un gruppo di ragazzi che hanno seguito in questa stagione il nostro master in radiofonia, per l'esattezza dovrei dire master in radio, new media management e content. Questi sono i master che fa il Sole 24 Ore con la sua business school. Abbiamo partecipato anche noi per quello che riguarda la radio, anche io, anche Fabrizio Intonti, anche altri colleghi di Radio 24 hanno avuto per vari mesi davanti una classe di ragazzi che ha deciso di investire nel loro futuro professionale, e pensando che, penso e sono convinto a piena ragione, che anche il settore della radiofonia fosse un settore in cui sia possibile trovare degli sbocchi. Ora, questi ragazzi che hanno diligentemente seguito le nostre lezioni, i nostri corsi, i nostri seminari, abbiamo pensato di metterli subito alla prova. Appena finito il master l'abbiamo subito buttati allo sbaraglio. Oddio, io già l'avevo buttati allo sbaraglio il primo giorno di lezione, vi ricordate? L'ho votati tutti in diretta, immediatamente, per dare a loro questa sorta di battesimo del fuoco. E siccome si ripeterà questo master, ricomincerà a novembre, sarà anche ampliato, si chiama Radio Video Web Content, quindi abbiamo pensato alla base di un master sulla radiofonia, dando dignità e esistenza al lavoro radiofonico, che è un lavoro amplissimo, un lavoro che ormai, visto che la radio ha perso la sua essenza concreta, non è più un oggetto, la radio è una modalità che può passare attraverso tutti i media. Quindi abbiamo pensato nel prossimo master, che di cui potete trovare già tutte le indicazioni, andate sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore, della Business School del Sole 24, trovate tutti i riferimenti. Non lo dico perché voglio fare un'automarchetta aziendale, perché ci credo veramente. Io penso che se possiamo noi trasferire qualcosa degli anni che abbiamo investito nel vedere l'evoluzione del mezzo radiofonico e contaminarlo con quelli che sono i nuovi strumenti di comunicazione, di elaborazione del pensiero, di diffusione delle idee, che sono la base oggi anche dell'economia, abbiamo fatto un bel servizio alle generazioni che verranno. Dicevo, questi ragazzi hanno pensato di farlo attraverso una modalità divertente, simpatica, allegra, quella della sitcom. Hanno, ogni volta che noi proponevamo un tema, e questa settimana abbiamo posto il tema del lavoro, l'automazione, le tecnologie, quali sono gli spiragli in cui infilarsi, perché si prevede che lì ci sarà possibilità di sviluppo professionale, invece che trincerarsi e sclerotizzarsi su quello che già sembra che funzioni oggi, e lo fanno attraverso una sitcom. Abbiamo detto questa volta: dedicate il vostro frigo vuoto, questo è il titolo della sitcom. Il frigo vuoto è il simbolo emotivo di un appartamento dove stanno questi ragazzi, un gruppo di questi ragazzi fuori sede per partecipare al nostro master. Di questa volta elaborate un frigo vuoto, cioè fatevi delle chiacchiere davanti al vostro frigo vuoto, a meno che non arrivi al pacco dalla famiglia con i viveri, di fronte al tema del lavoro. E questo è stato il primo esempio. Frigo vuoto. Frigo vuoto. Convivi e lascia vivere. Con Enrica, Giulia, Massimiliano, Grazia e Stefano. Siri, cerca offerte di lavoro. Sto cercando offerte di lavoro per te. Max, ma che stai facendo? Sto facendo delle ricerche, non vedi? Nessuna offerta per umani. Vi abbiamo fregati, poveri illusi. Ma che tristezza. Ormai i robot sono i nuovi nemici, non i vecchi che non vogliono andare in pensione. Ma ragazzi, smettetela, non è così. Pensate a tutti quei lavori intellettuali. Lo scrittore, il giornalista, non potranno mai essere sostituiti. Invece è finita, siamo tutti rovinati. Sentite un po' qui. Nuovo terreno di conquista dell'intelligenza artificiale, il mondo giornalistico. La compagnia Automated Inside lancia Wordsmith Beta, il software che autogenera articoli. Quindi, che mi dici ora, cara Anna? È arrivato il giorno del giudizio per noi umani. Ma smetti la pazza nevrotica! Stiamo tutti molto calmi. Non è possibile che un software faccia il giornalista, mica un lavoro automatico. Qui dice che basta dargli un tema e lui fa un po' copia e incolla da internet e ti mette insieme un articolo in 5 minuti. Io per scriverne uno ci metto almeno mezz'ora. Vabbè, almeno a certi rincoglioniti toglieranno finalmente la penna. Sì sì, tu scherzi, ma qui siamo davvero fottuti. Ci stanno rubando la vita. Oddio, ma allora l'unica soluzione per lavorare ancora è trasformarci tutti in robot. Ciao, sono Max. Scrivo, twitto, faccio spesa, apparecchio e sparecchio a costo zero. Vaffanculo. Grazie. 800240024, parlate con i vostri figli, siete dei giovani ascoltatori e questa mattina ci state seguendo, o comunque pensate che nel mondo dei ragazzi, degli aspiranti al mondo del lavoro, esista questa antica preoccupazione che l'automazione tolga lavoro a quelle che sono le potenzialità umane. 800240024, a tra poco. Melog, cronache meridiane. 800240024, avete sentito anche nella divertente elaborazione di una sitcom in cui naturalmente si alzano i toni, si esaspera, ma perché facciamo radio, in quel caso fanno una modalità di espressione che si riferisce a una situazione concreta, attuale, vissuta, realistica, ma allo stesso tempo con il beneficio dell'intervento fantasioso, della forzatura del fatto che comunque una sitcom. Comunque esprimono una preoccupazione. Facciamo parte della cosiddetta generazione che deve affacciarsi al mondo del lavoro. Non siamo esattamente nativi digitali, secondo una dicitura forse anche un po' datata, ma comunque siamo persone che non hanno memoria storica di quello che fosse il mondo comunque predigitale, perché da quando abbiamo l'età dell'elaborazione del pensiero, comunque abbiamo in mano strumenti che ci permettono di interconnetterci e di avere un'immediata risposta rispetto alle nostre domande, ma la nostra paura è la stessa di quella dei nostri trisnonni che vedevano le macchine a vapore e l'automazione, pensavano dove finirà, diciamo, il lavoro umano, spazio per il lavoro umano. È giusto che i ragazzi abbiano questa preoccupazione, o altrimenti loro che cavalcano la contemporaneità non dovrebbero più porsi questo problema. Qual è il problema? Che vivono ancora di riflesso le paure dei loro genitori, devono essere all'altezza delle aspettative dei loro genitori, quindi non possono prendere il volo autonomamente verso quelle che sono le direzioni indicate dalle sfide della contemporaneità. Su questo dobbiamo parlare e riflettere. Mi piacerebbe capire e avere qualche punto di vista anche dei genitori che ci ascoltano rispetto agli indirizzi che hanno dato ai loro ragazzi, come li vedono impegnarsi, quali aspettative stanno aiutandoli a costruire per il mondo del lavoro. Però per aiutarmi in questa impervia maniera di darsi le risposte in un tema in cui le risposte in realtà preconfezionate ce ne sono molto poche, c'è una persona che appartiene comunque al mondo giovanile, perché è un ragazzo molto giovane, penso abbia 20, poco più di 25 anni, però è uno che ha dato un segno concreto proprio nel mondo che da un certo punto di vista spaventa tantissimo, il mondo dell'automazione, delle tecnologie, della concretezza rispetto alle grandi promesse digitali. Questo costui è Davide Dattoli, buongiorno. Buongiorno a tutti. È CEO di Talent Garden, poi ci spiega cos'è, che è un network di spazi per innovatori digitali e imprese tecnologiche, che ha 17 campus in 5 paesi. ha anche, diciamo, fondato, immagino l'abbia fatto lei, la TAG Innovation School, che è la scuola dell'innovazione e dello sviluppo digitale, che aiuta gli studenti proprio in percorsi di formazione. Quanti anni ha lei, Dattoli? 26 anni. 26. Si rende conto, senza bisogno di continuare a tessere logiche, che è un'eccezione rispetto alla media dei 26 anni nel nostro paese. Lei quanto ha costruito e in quanti anni ha costruito quello che ho miseramente sintetizzato io? Ma noi siamo partiti 5 anni fa da Brescia e siamo partiti con l'idea del provare a cambiare il nostro territorio. Quindi ha iniziato a 20 anni ha iniziato lei? Assolutamente sì, e la cosa bella è che abbiamo scoperto che in realtà come noi ce ne erano tanti altri, quindi non sono di sicuro la maggioranza, ma sono una parte importante. Oggi Talent Garden nelle sue diverse sedi a circa 1800 persone, tutte, diciamo, come media siamo under 35, quindi persone che hanno background, storie diverse, che stanno costruendo imprese, che stanno facendo percorsi di carriera diversi da liberi professionisti, che stanno lavorando in imprese particolarmente innovative in modalità diverse. Lei mi starebbe giustamente segnalando che mentre noi giornalisti ci occupiamo del fenomeno tarocco Blue Whale, mentre pensiamo alla sentenza che condannerà anche in via penale chi compie atti di bullismo, mentre ogni giorno riempiamo pagine intere sulle angosce e le angustie che attraverserebbero il mondo giovanile, l'incomunicabilità, incapacità di percepire la contemporaneità, dice no, guarda, esiste una rete di giovani che stanno lavorando, voi non li vedete, non ve ne rendete conto, ma ci sono. Assolutamente di meno, noi siamo partiti un po' proprio da questo, se apriamo il giornale la mattina vediamo un mondo intorno a noi molto negativo, molto difficile, di crisi economiche, di problemi, di sicuro esistono, ma in realtà ci sono tante persone che stanno facendo delle cose bellissime in giro per il nostro paese, andiamo da Torino fino a Pordenone, fino a Cosenza, e sono persone giovani che si sono messe in gioco e hanno detto proviamo non solo a cercare un lavoro ma anche a costruircene uno. Stiamo provando a fare delle esperienze diverse e ad arrivare in un luogo come Talent Garden, in realtà il confronto con altre persone anche nei giorni un po' più bui del proprio lavoro diventa un modo di confronto e del conoscere altre persone che ti possono dare quegli stimoli che ti fanno magari rallegrare un attimo e andare avanti anche in momenti difficili. Le posso fare una domanda? Lei dai 15 a 20 anni che stava preparando questa idea, cosa ha fatto a differenza dei suoi compagni di classe, colleghi, amici con cui faceva attività sportive? Dov'era la differenza nel suo quotidiano, nella sua giornata? Ma diciamo che ho sempre avuto la passione verso il mondo della tecnologia e ho sempre capito che avrebbe un po' cambiato e modificato tutte le nostre vite, e dall'altro ho avuto la fortuna di riuscire a viaggiare molto e quindi del vedere anche esperienze, territori diversi e capire quanto il confronto con gli altri e l'apertura mentale diventassero uno degli elementi fondamentali. Le posso mandare quanto è stata importante la sua famiglia in questa cosa qua? Perché uno dice viaggia se ti fanno viaggiare i genitori, se pensano che questo sia un investimento utile, se appassioni tecnologia, se qualcuno ti permette di coltivare le tue passioni e non ti dicono togliti davanti. Io mi sento ancora dire da mia moglie a 60 anni che fai ancora davanti a quel computer, non capendo che è la maniera in cui mantengo la famiglia. Diciamo che questo lo sento anch'io e i miei nonni mi dicono sempre ma perché stai da tutto il giorno davanti al computer? Spesso che non è così, però diciamo che poi ognuno di noi è un singolo individuo. Oggi ci sono compagnie aeree low cost che ci permettono di girare l'Europa con qualche decina di euro, e quindi il tema è secondo me molto il provare ad aprirsi, il provare a conoscere, perché poi diventa l'unico elemento per non aver paura di questo cambiamento. Di sicuro siamo in un cambiamento epocale. Io ho cominciato la mia carriera sul mondo dei social media perché mi sono ritrovato nel 2008-2009 in cui i social network stavano scoppiando, e di capire le potenzialità che le aziende potessero avere su questo settore. Oggi mi ritrovo meno di 10 anni dopo in cui quella figura professionale, il social media manager che oggi ha creato decine di migliaia di posti di lavoro, probabilmente nei 5 anni prossimi non esisterà già più. Quindi la velocità delle professioni è talmente aumentata negli ultimi anni che rispetto al passato dobbiamo pensare che la nostra vita cambierà tantissime volte. La tecnologia, questo anche nel settore tecnologico, lo sta accelerando sempre di più. Ecco, lei ha detto una cosa molto interessante secondo me, l'entusiasmo per quelli che sono i momentanei abbagli degli strumenti che ci mette questa fase della nostra evoluzione a disposizione, non devono far pensare che investire in quello che oggi funziona è un investimento per la propria vita. Le faccio un esempio, qual è la differenza fra lei e qualsiasi altro giovane che nella sua generazione, nei suoi tempi, giocava sui social network, si costruiva, lei ha detto ha cominciato in che anno? 2008-2009. Del 2008-2009, era il periodo in cui cominciavano a emergere i primi blogger. Oggi molti blogger sono stimati giornalisti, hanno fatto anche loro il loro investimento, anche perché magari erano anche di buona famiglia, quindi sono riusciti a farlo. Altri sono rimasti dove sono partiti, altri hanno fatto altre cose. Qual è la chiave per capire che sì, bisogna conoscere gli strumenti, ma capire quello che verrà dopo, non fermarsi in quello che si sta vivendo? Ma di sicuro l'investire su se stessi e sulla propria formazione, quindi sempre di più diventa fondamentale avere competenze sempre più verticali e strumenti per poter analizzare questo cambiamento, che sarà incredibile, sarà continuamente più veloce, ma alla fine si basa sempre su dei principi uguali. Il problema è riuscire a lavorare sulle proprie competenze per essere sempre più specializzati dove le macchine non possono arrivare. Le faccio un'altra domanda che mi viene in mente. Allora, qual è la differenza fra quello che lei chiede alle persone che in qualche maniera si avvicinano al suo network e cominciano concretamente ad entrare nel mondo del lavoro? E non so, ieri ho visto la celebrazione di un ragazzino di 16 anni, uno di questi youtuber che oggi vanno molto, faceva il video con la mamma, diceva totali idiozie, magari l'avranno visto 1,5 milioni di altri ragazzini come lui, e questo comunque lui porta un profitto. Ecco, quello è un investimento che nel tempo darà risultati, o come lei ha detto che fra un po' è inutile che immaginate che con la vostra perizia nel muovere nei social network troverete lavoro, fra un po' le aziende non avranno più bisogno di gente che si muove nei social network. Ecco, lo youtuber che oggi sembra che faccia del fatturato ha un futuro? Ma magari non ce la va più a fare lo youtuber, perché YouTube nel frattempo non esisterà più, però di sicuro la sua capacità, le sue competenze potranno essere messe al servizio di altri business, di altre attività che nel frattempo si saranno create. Noi non sappiamo tra 5 anni quali social network o quali strumenti utilizzeremo, ma sappiamo che l'aver trasformato ed essere diventati uno youtuber con decine di migliaia di follower permette di avere conoscenze e strumenti che poi possono essere replicati in altri settori. Questo diventa il valore aggiunto vero oggi. Secondo lei è giusto il principio di sovrascrivere ogni giorno tutte le proprie convinzioni, rifare tabula rasa e reinvestire su quello che per istinto o per strumenti che si sono affinati di percezione del mondo ogni giorno si accumula di nuovo? Ma assolutamente sì, io su questo porto l'esempio di alcune professioni più tradizionali. Se passiamo agli avvocati, una volta si formava, doveva aggiornarsi sulle nuove leggi che emergevano, ma più o meno era sempre quello ciò di cui dovevi sapere. Oggi in queste nuove professioni, può essere social media manager, ma possono essere tante altre, noi creiamo e distruggiamo dei lavori in meno di 10 anni. Allora devo lavorare su me stesso, sulla formazione e le mie competenze, perché sono l'unico vero valore aggiunto che nel medio termine posso avere. Ci fermiamo soltanto un istante, poi riprendiamo con Davide Datto, ma poi fra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo parlando di giovani, lavoro, di automazione, soprattutto di concetto digitale. Lo facciamo con Davide Datto, lo ricordo, CEO di Talent Garden, che è un network di spazi per innovatori digitali e imprese tecnologiche. Un ragazzo che è giovanissimo, ha iniziato a 20 anni, ha costruito una rete di ragazzi come lui che azzannano la contemporaneità nella migliore delle maniere e per creare delle premesse per un futuro che probabilmente ancora non siamo nemmeno in grado noi di percepire. Grazie del tempo, Datto, lo so che lei ha un impegno, poi si ferma un altro minuto per noi. La domanda che volevo fare è la capacità di decodifica del significato di cultura digitale. Lei giorni fa al ministro Poletti diceva ma io ho milioni di operai che devo fare, ha velocemente in maniera incisiva spiegato che il digitale non è soltanto uno smanettone davanti a un computer. Ripete quel concetto anche per i nostri ascoltatori. Assolutamente sì, prima di tutto va considerato che il digitale non sia un altro settore della nostra economia, ma oggi il digitale è di fatto un tool, un sistema che si inserisce su tutti i diversi settori e quindi le competenze digitali oggi sono qualcosa alla base di qualsiasi lavoro del futuro, dall'avvocato all'operaio a qualsiasi altro, non sono semplicemente pochi smanettoni. E questo perché sempre di più anche nelle fabbriche servono competenze avanzatissime dal punto di vista tecnologico. Serve pensare che è vero che i robot ci fregheranno alcuni lavori e permetteranno di automatizzare alcuni processi, ma serviranno sempre più persone in grado di controllarli, di gestirli, di modificarli e di programmarli. E su questo è un cambiamento del mondo del lavoro che sarà sempre più veloce e sul quale bisogna lavorare sulle proprie competenze per poter essere adatti a questo cambiamento. La ringrazio, la lascio ai suoi impegni, spero di avere altre occasioni di sentirla, perché è terapeutico, oltre che essere interessante, sentire un ragazzo che ce l'ha fatta dagli strumenti anche a noi genitori pieni di affanni per capire e comprendere in realtà la strada c'è. Non è vero che non esista assolutamente nessuna via d'uscita, che le fessure della grande muraglia dell'afflizione sono rare, si aprono raramente e bisogna saperle individuare. Quelli che ci si infilano per primi sono quelli che si salvano. Allora, Max, come va il tuo nuovo lavoro? Benissimo. Cosa? È un nuovo lavoro? Sì, ho cominciato un mese fa. È un lavoro stupendo. Ma grande, dai, cosa fai? Sono un driver di food delivery. Un che? Parla come mangi. Ha detto bene, grazie. In pratica Max fa il Pony Express. Ah. E anche meno entusiasmo, eh? No, scusami, però non è un lavoro vero. Come no? Sono in strada 8 ore al giorno, lavoro anche il sabato e prendo 1200 euro al mese. Che tristezza, più di me. No, dai, non ci credo. E certo, più le mance dei clienti. Sì, ma verrai sfruttato come uno schiavo. Ma non è vero, decido io come e quando lavorare. Il lavoro dei sogni? Spiritoso. Sì, ma immagino che i clienti ti trattino come uno zerbino. Beh, dipende, di stronzi è pieno il mondo, eh. Ma la maggior parte sono persone normali ed educate. Beh sì, grazie. Ormai il food delivery è diventato una cosa normale, di uso comune. La gente ci è abituata. Infatti, e poi i driver sono diversissimi tra loro. Dall'immigrato che arrotonda al cinquantenne che lo fa per hobby. È un mercato davvero forte. Ma sarà. Intanto ti respiri gli scarichi delle auto tutto il giorno. E poi guarda la tua faccia, sicuramente ti ammalerai. Ma che dici? Io sto benissimo. Frigo Vuoto, la sitcom che è stata pensata, scritta, ideata e anche interpretata, naturalmente non sono attori, sono ragazzi che hanno studiato i sistemi per costruire una radio, per vendere una radio, per pubblicizzare una radio, per organizzare il palinsesto di una radio. Questo è stato il loro programma di un anno, l'abbiamo seguiti anche noi, anche io li ho visti, li conosco uno per uno, mi sono collegato con loro per mesi attraverso sistemi digitali, noi ci telefonavamo, ci mandavamo le letterine e mi arrivava sullo smartphone la segnalazione di un lavoro fatto, lo guardavo, lo seguivo e lo correggevo. Questo è il master che rinizia a novembre e fino a maggio 2018, quest'anno sarà anche ampliato, avremo ancora un ampio, più ampio vasto orizzonte, non soltanto radio ma anche video e web content, come diceva giustamente prima il ragazzo prodigio che abbiamo sentito, Davide Dattoli. Ormai il digitale è una modalità di lettura, di espressione e di decodifica della contemporaneità. Parliamo di radio, partiamo dalla radio, perché noi siamo radiofonici, crediamo nella radio, la radio è il nostro mezzo di espressione primaria, ma la radio non può esistere se non hai delle cognizioni anche del trattamento video, di quello che poi è il sistema di distribuzione della nostra radio, perché la nostra radio non è più un oggetto concreto, fatto di bachelite, di plastica, di legno, di radica o di qualsiasi altra materia. La radio è la nostra voce che arriva a voi attraverso un sistema comunque che prevede delle espressioni di tipo digitale. 800240024, torniamo al tema del lavoro, raccontato dai ragazzi del nostro master. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Vorrei parlare di un aspetto importante che probabilmente non è ancora stato calcato bene. La preoccupazione, direi comprensibile, delle persone quando sentono che perdono il lavoro, che il lavoro finisce a causa dei robot, io non sono d'accordo. Per me il robot non cancella il lavoro, ma mette l'uomo nelle condizioni di fare meno fatiche fisiche, per cui rimane per me un problema politico. Prima bisognerebbe creare un orientamento in modo che i giovani già da piccoli comprendano quali sono le strade da percorrere. È inutile che portiamo i nostri figli a diventare avvocati o mansioni che non sono, diventeranno obsolete. Lei dice giustamente, già la famiglia dare un imprinting diverso. Da grande farai l'avvocato come il papà, il commercialista come il nonno o il dottore come lo zio. Sì, giusto, ci sarà sempre bisogno di avvocati, di commercialisti, di dottori, di qualunque altra cosa. Però comincerà a far capire che il mondo è cambiato, che abbiamo avuto un'evoluzione profonda, che questi ultimi, diciamo, 20 anni, io stabilisco l'inizio della percezione del mondo digitale più o meno con il 1995, almeno in Italia. Quello è stato l'anno in cui sembrava che cambiava tutto. Improvvisamente ci si rese conto che il computer era qualcosa di leggibile, improvvisamente noi che facevamo radio cominciammo a mettere le nostre trasmissioni radiofoniche dentro un computer. Vi giuro, sembrava qualcosa totalmente nuovo. C'era una catena di produzione per passare un audio che era in un nastro, ancora in un grosso magnetofono, attraverso fili con smanettoni reclutati su piazza, capito? E sentirlo malissimo, perché il primo player della real time, che fu proprio del 95-96, capito, faceva sentire una cosa con una qualità pessima, e poi sembrava un miracolo. Senti la mia trasmissione attraverso il computer. Luca Beltrametti, buongiorno. Buongiorno a lei. Luca Beltrametti, ascoltatori. Grazie, direttore del Dipartimento Economia dell'Università di Genova, autore insieme a Nino Guarnacci, Nicola Entini, il libro La fabbrica connessa, uscirà il 15 giugno per Guerini Associati, quindi abbiamo già possibilità di avere un'anticipazione. Un libro che sembra che sia il testo base di quello di cui stiamo dicendo. Ha sentito la perplessità generale dei ragazzi che nella loro sitcom esprimono preoccupazioni non tanto loro, probabilmente le loro famiglie. Cosa succederà? Il signore, che ancora parliamo di robot, poi come se ci trovassimo nei fantastici momenti dello steampunk, quando cominciano a immaginarsi questi simulacri di umanità. Oggi l'automazione non passa soltanto attraverso dei robottini o dei sostituti dell'umanità. L'automazione è un modo d'essere, è una percezione del mondo, è un'apertura mentale, è d'accordo? Sì, soprattutto, allora, per completezza, se mi permette, ricordiamo che c'è anche Corrado Laforgia tra gli autori, tra gli amici con i quali abbiamo scritto questo libro. Vabbè, non me l'hanno scritto, Corrado Laforgia. Okay. Un libro a più mani. A più mani. E sì, insomma, il tentativo che noi facciamo in questo libro è di spiegare in termini, credo, laici le grandi potenzialità di questa rivoluzione e anche i pericoli che sono associati. Lei diceva l'innovazione, l'automazione cambia la sua natura, credo che sia vero. Cioè, se prima, facciamo un esempio molto pratico, se prima nelle fabbriche i robot, e ci sono da 30 anni i robot nelle fabbriche, vivevano una dimensione confinata e svolgevano mansioni ripetitive, tipicamente pericolose per l'uomo. Credo che una delle prime applicazioni massicce della robotica nelle fabbriche sia per verniciare le carrozzerie delle automobili. Quella è un'attività tipicamente molto dannosa per l'uomo, però ripetitiva, e lì i robot da 20 anni lavorano chiusi con delle transenne, quindi non c'è interazione tra uomo e macchina. La novità è che i nuovi robot, che genericamente si chiamano robot collaborativi, sempre più condivideranno mansioni, ma anche spazi fisici con lavoratori umani, e questa è una grande novità. Una novità resa possibile dal fatto che questi robot sono in grado di interagire con il loro ambiente grazie a sensori e alla connessione con internet, ma sono anche in grado di apprendere, sono in grado di percepire il comportamento umano e quindi fare attenzione, diciamo, a non fare male alle persone con le quali interagiscono. Però si aprono effettivamente scenari radicalmente nuovi. Diciamo, è un'elaborazione delle famose leggi della robotica di Asimov. Non dovranno comunque mai nuocere all'umano? Sì, questo assolutamente. Io credo che l'impatto, credo che sia abbastanza ragionevole dire che la sicurezza del lavoro nelle fabbriche aumenterà e che molte mansioni molto ripetitive e anche talvolta pericolose potranno essere svolte da robot. Certo, il pericolo che questo distrugga posti di lavoro è un pericolo molto concreto. Credo che si distruggeranno milioni di posti di lavoro e milioni di posti di lavoro nel mondo si creeranno. Il problema è che saranno creati e distrutti in posti diversi e che i lavori nuovi saranno molto diversi dai lavori distrutti. Quindi la sfida è molto grande per le nazioni, per i settori industriali, per le singole imprese. Credo che sia un tema molto. Allora, Beltrametti, ci fermiamo soltanto un istante, quello che dice lei è interessante, perché cioè, dice sì, la robotica, l'automazione, è indubbio, inutile farci illusioni di dire così. È chiaro che faranno il lavoro di molti umani, quindi molti umani o si riqualificano in qualche maniera o sono disposti comunque anche a una sorta di distacco dai vincoli e dalle emozioni e dalle nostalgie che li legano al territorio di nascita, o se no altrimenti resteranno senza lavoro. Ci fermiamo un istante. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com. Vi presento Melog, cronache meridiane. Si sposa, l'altra è incinta, quell'altra convive, ma solo a me manca l'aria. Che c'hai il ciclo, Harry? Ma vaffanculo, Max, che ne capisci tu. Harry, hai ragione, è la storia della mia vita. Tutti a inseguire qualcosa e io invece sempre a vivere la giornata. È quello che mi rimprovera mia mamma. Fai progetti, immaginati fra qualche anno, cosa vuoi fare della tua vita. Io invece so con certezza solo quello che non voglio. Non voglio sposarmi, non voglio rimanere Anna, incinta. Anna, prendi il sacchetto e falla respirare, sta partendo con una delle sue crisi. Ma no, ragazzi! È solo che mi sembra che tutti abbiano chiaro cosa vogliono, con chi e quando. Io no. Ti capisco, Harry. Ma va, Harry, vai al lavoro. Un giorno ti fai la fabbrichetta, mogliettina che ti prepara la cena, tac. Ma va, Max, che il milanese non ti viene proprio. Quell'accento palermitano lo riconoscerebbe anche un sordo. A parte gli scherzi, Harry, ma che vuoi di più? Ecco, appunto. Max, a me tutto sto popò di roba fa venire l'ansia. Sai quale potrebbe essere una soluzione, Harry? Sì, ti prego, dimmela. Una vita in leasing. È arrivata l'esperta. Taci, Max, immaginati una vita in cui non c'è niente di definitivo, tutto si affitta. Io sogno una vita in cui tutto si cambia e si restituisce. Lavoro, case, auto e amici. E magari pure gli amanti. Ma tu su questo già fai scuola. Frigo Vuoto, la sitcom realizzata dai ragazzi del nostro master di radio, che si ripeterà l'anno prossimo, cioè praticamente da novembre, dal 27 novembre. Le informazioni poi trovate nel sito della Business School del Sole 24 Ore, andate a cercare nel sito del Sole 24 Ore. Lavoro impegnativo, perché non crediate, un gruppo di ragazzi non ha mai fatto radio, che devono essere in grado di fare una sitcom, sono stati naturalmente egregiamente guidati e diretti da Fabrizio Intonti, cioè mi hanno sottratto Intonti per lunghi momenti delle mie giornate professionali, perché da seguirli in questa sitcom non è facile pensare, immaginare, scrivere i testi, stare nei tempi, comporla, costruirla. Loro devono far tutto da soli, se no non avrebbero fatto un master. Quindi devono pensare dalla sonorizzazione alla creazione del testo, all'articolazione. Ve li immaginate seduti su un divano con la televisione in sottofondo, stravaccati la sera, parlano dei loro problemi. Questo è, diciamo, il lavoro di fine anno dei ragazzi del nostro master. Torniamo al nostro tema. È interessante, stiamo parlando di quelli che sono gli scenari futuri, scenari che possono sembrare implacabili e molte volte anche pieni e densi di funestri presagi, ma l'umanità non si è mai estinta per l'automazione, anzi l'automazione ha diversificato, ha modificato. Quello che ci ha detto l'ospite di poco fa, Luca Beltrametti, che ricordo che è autore di un libro, è direttore del Dipartimento dell'Economia all'Università di Genova, ha scritto un libro insieme a Nino Guarnacci, Nicola Entini e Corrado La Forgia, che è La Fabbrica Connessa, in uscita il 15 giugno per Guerini Associati. Bisogna abituarsi che, ahimè, non potremo mai più mettere le radici laddove siamo stati partoriti. Dobbiamo cominciare a pensare che il mondo è vasto, che le transumanze, i movimenti migratori non saranno soltanto di quelli che viaggiano coi barconi, ma saranno quelli che si prenderanno sulle spalle il piccolo o grande bagaglio e le loro competenze e andranno laddove queste competenze avranno ragione di essere espresse. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la sto ascoltando. Ah sì, io sono molto interessato alla vostra, al tema di oggi, perché sono l'autore anch'io di un libro che parla di robotica vista non tanto dal punto di vista del roboticista, perché io sono alla fine un economista prestato alla finanza, ma dal punto di vista chi deve investire in robotica e intelligenza artificiale per capire se effettivamente sono delle opportunità e quali sono. No? E in effetti secondo me, a prescindere. Secondo lei si può scegliere, si può scegliere dagli altri ospiti. No, volevo dire, mi scusi Andrea, secondo lei robotica, intelligenza artificiale, l'internet of things, eccetera, sono delle grandissime opportunità per tutti, basta saperle cogliere al volo. Il tema, secondo me, che non è stato approfondito, un attimo che io punto un attimo la vostra riflessione sul fatto che quello che forse fa paura è la velocità del cambiamento della tecnologia, che oggi è una velocità al di fuori, diciamo, dei limiti umani, mentre le tecnologie che si sono fatte negli anni, nei decenni, nei secoli passati avevano delle velocità ben diverse. E questo, secondo me, è c'è anche da dire, Andrea, c'è anche da dire che il cambiamento tecnologico oggi è anche sul piano dell'esperienza individuale. Noi, forse nessuno se ne rende conto, se lo dico la gente mi accusa di bestemmiare, ma abbiamo avuto un'evoluzione tecnologica individuale fortissima. L'immissione di tecnologia nel nostro corpo è stata massiccia negli ultimi 10 anni. Nessuno si rende conto, ma siamo uomini tecnologici, già siamo in parte robotizzati, dato che parte della nostra memoria, della nostra coscienza, delle nostre relazioni sono in una macchina che ci portiamo sempre addosso. Questo, secondo lei, ha un senso, Luca Beltrametti, che per abituarci al mondo che sta cambiando, siamo già cambiati anche noi? Sì, assolutamente vero, però sulla velocità così impetuosa del cambiamento io non sono così convinto. Quando noi prendiamo un'autostrada, entriamo al casello, noi vediamo convivere 3 tecnologie. Ci sono alcuni che pagano da dove c'è una persona, quindi c'è un rapporto uomo-uomo, alcuni pagano con la carta di credito, c'è un rapporto uomo-macchina, alcuni usano il telepass e c'è un rapporto macchina-macchina, tutto digitale. Io credo che queste tecnologie non saranno poi così dirompenti, io credo che sarà una evoluzione progressiva che è già in atto, come giustamente diceva lei. Noi tutti abbiamo in mano, io in questo preciso momento ho in mano un palmare che ha delle caratteristiche che 10 anni fa erano totalmente fantascienza. Però noi abbiamo anche una sigla ci porta via, abbiamo capito perfettamente, mi piace l'esempio e ci chiederemo ancora chissà per quanto tempo, perché tanta gente debba fare la fila per pagare.